Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, vamos a un tema más argento, pero argento uruguayo, ¿no? Un afrocandombe de Rubén Rada. Juana con Arturo nos canta Rubén Rada por la otra oreja. Ahí está, afrocandombe con la otra oreja. Juana con Arturo, Rosa con Manuel, Luisa con Armando, Laura con Gabriel. Todos van luchando sin desfallecer, en busca de un pueblo que tenga nivel. Era un pueblo libre, se dijo una vez, que tenía de todo y algo más también. Y que de repente Juana con Andrés perdieron la risa por un coronel. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni cantonear. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni cantonear. Un candombe libre quisiera cantar, que calme los males de la sociedad y que de repente todos puedan ver juntos de la mano el amanecer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a recorrer un disco que hicieron de gente independiente de Italia, en solidaridad con la... con el EZLN, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y vamos a recorrer a cuatro intérpretes. Cero Plástica, Michelangelo Buonarroti, Tony Moretto, Il Generale. Empezamos. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. Salud, hermanos indígenas. Salud, hermanos y hermanas de todos los colores. Que viva siempre el color de la tierra que somos. Democracia, libertad, justicia. Desde la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, marzo del 2001. Gracias. Oh comandante, noi siamo nei campi con le zappe, ma sempre più dura portare il pane, mio figlio c'ha fame, le donne a casa piangono disperate, non vedono libertà per i loro bambini in lacrime, sai non chiedo tanto dignità e tanto coraggio, ho forza e volontà e per questo coltivo il campo, no, non chiedo tanto ma chiedo da uomo stanco di lavorare in pace, di non essere sfruttato, e che vuoi che dica dei colossi americani, dei governi e militari che uccidono i miei compaesani, e che vuoi che dica di questo inferno che viviamo, il mercato globale ad uccidere è legittimato ed io non ce la faccio a guardare questa ingiustizia, il mio popolo è stanco e vuole democrazia, il governo risponde con stato di polizia, ma lottiamo per la pace, questa è lotta zapatista, vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla, vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra. ¿Quieres cantar conmigo, campesino mexicano? El mismo grito, el mismo anhelo. Siamo ancora qua, nelle vene scorre sangue maia, e da secoli lottiamo per la nostra libertà. Ya basta, povertà, oppressione, ignoranza, l'esercito continua la missione di Zapata. Se il Messico mangia grazie a noi, che studiamo dentro i campi e fatichiamo come vuoi. E per cosa? Per la classe politica corrotta, per infami paramilitari, figli di mignotta. Il Giappa sanguina, c'è una bestia demoniaca e divora ogni risorsa, gli morde la gola e attende che muoia, spolpa le campagne come grasso che cola. Questa terra è nostra ma qualcuno ce l'espropria, fino già dai tempi della conquista spagnola. Cingoia vuole cancellare questa storia, fratelli contadini siamo in lotta. Vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla, vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto somos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Comandare, da imparare. Estás escuchando En la Otra Oreja. Canto ringraziando l'esistenza di chi al mondo calore dà. Coinvolto canto di conseguenza, un'aria che prende chi all'aria sta. Della notte fonda che arriva dalla luce e che verso la luce va. Canto l'incanto ispirato mentre un'alba pitrice in sinfonia di colori si dà. E quasi senza pietà intorno dissolve l'oscurità. Dal mondo ma anche figura l'ombre dà. Le zone oscure danno profondità. E ancora senza pietà il giorno dissolve l'oscurità. Intorno insieme risalta l'ombre dà. Muovendole in una danza in volo già nell'aria va. Gravità in volo già nell'aria va. Una miriade di voci senza gravità in volo già nell'aria va. Una miriade di voci senza gravità in volo già nell'aria va. Uno storno di sogni e vibranti ali. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Toma, toma, toma. Yeah. Aquí hay el bien de Gardenaus que están en combinaciones especiales. Con el Generale. Porque ahora queremos un cafecito. Un cafecito. Y tú sabes cómo lo queremos el cafecito. Mm. Lo queremos rebelde. Escucha, mi gente, escucha cómo lo queremos. Bye. Un cafecito, mami, il generale. Historia breve es lo que tú tienes. Aquí hay una antigua grandeza que quiere que todo el mundo sepa que ya nada teme, y orgullo y firmeza cada día suben. Con libero mercato, con la competición, voglio impiallare tutto, ma ci resta un'occasione. Fare da sé, auto-organizzazione, un buon caffè, senza padrone. Un caffesito, mami, e poco dopo io ripartirò. Un caffesito, por favor, lo quiero negro, rebelde, caliente. Un caffesito, mami, antes que empieza la revolución. Un caffesito, por favor, caffè rebelde zapatista. Delegato zero, e sopra sombra Luz vorrei essere passeggero. Ci vuole un caffè, vieni a prenderlo da me. Questo che viene dal Chiapas mi sa che è il meglio che c'è. Io e te un caffè, qualcosa d'autentico come il Che con Fidel. A Ciudad del México un altro caffè. Dimmi te cosa ci manca, sei chiaro che contiamo più del nostro conto in banca. Col nuovo liberismo, col vecchio latifondo, vorrebbero tenere sotto il tacco tutto il mondo. Ci vuole un po' caffè per pensare ad una svolta, col gusto, la fragranza e questo aroma di rivolta. Un caffè, cafecito, mami, e poco dopo io ripartirò. Un cafecito, por favor, lo quiero negro, rebelde, caliente. Un cafecito, mami, antes que empieza la revolución. Un cafecito, por favor, caffè rebelde zapatista. Quello che propongo è solo roba di qualità, rappresenta per un popolo la sua dignità, e chi sfrutta e ne approfitta poi se ne pentirà, e pagherà, un giorno si pagherà. Un cafecito mexicano, non quello del mercato nordamericano. E il campesino si levanta temprano e tiene sempre su machete la mano. Non baja la cabeza, non baja la mirada, e tiene sonrisa también si no tiene nada. Los insurgentes lo pagan mordida, luchar por la tierra, luchar por la vida. Rebelde, rebelde, su, prendiamoci un caffè. Rebelde, negro, caliente, quello del Chiapas è meglio che c'è. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y ya esta cortina nos indica que vamos terminando este programa, y como casi siempre lo hacemos, vamos con una versión del tema de Carlos Puebla, en este caso interpretado por el grupo Moncada, este grupo cubano, pero que ha grabado en Estados Unidos. En Estados Unidos ha grabado varios discos y vamos a escuchar una versión en guajira, en vivo en Boston. El grupo Moncada. Excelente grupo de música, de Cuba, grabado en Boston, Estados Unidos. Aprendimos a quererte. Hasta la victoria. Desde la histórica altura. Hasta la victoria siempre. El sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con aires de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara,